Vieni qua che ti faccio vedere dov'è il nostro pezzo di mondo. Portati dietro un sorriso, un sospiro, li userai. Vieni qua che potrai galleggiare a due dita soltanto dal fondo. Ma se ti mancherà l'aria ti affitto la che prima e dopo il sogno c'è la vita da vivere, vivere l'ambrosco e poco e via sopravvivere, andata e ritorno classe 3, ma almeno è possibile, possibile. Ballaci su questa terra, faremo un po' piovere. Vieni qua che c'è questo drive-in che ha per schermo un gran cielo gonfiato. Macchina o no, c'è un bel pezzo d'asfalto da correre. L'ambrosco e bocco, oh, oh, non è così facile. Che prima e dopo il sogno c'è la vita da vivere, vivere l'ambrosco e poco e via sopravvivere, andate ritorno classe 3, ma almeno è possibile, possibile. Che posto c'è in me, posto c'è in me. Dico posto ce n'è, posto ce n'è, posto ce n'è, posto ce n'è. Gira, gira, gira, gira, gira.